Marte è il pianeta rosso, ricoperto dalla nuvola. La luce è una polverina rossa che si crea lasciando dentro il ferro e dentro l'acqua. Noi abbiamo fatto l'esperimento con le viti che sono diventate rosse, come la polverina di Marte. Abbiamo creato questa serra mescolando la curcuma con l'arancia, il rosso, la farina.